Pronto, Jerry? Ciao! Ma Jerry è il tuo nome? È veramente il mio nome è un po' più complesso, mi chiamo Gerlando. Gerlando? Però mi hanno sempre chiamato Jerry da quando avevo 2 giorni. E com'è questo gerundio? Che cosa significa Gerlando? No, Gerlando non è un gerundio del verbo gerlare, che potrebbe essere portare con una gerla. La gerla, certo, invece sì. No. E invece no, vuol dire? San Gerlando è il patrono di Agrigento. Esiste. Bene. Il 25 febbraio. Figurati, Gerlando, ti credo e come. Raccontami dello spettacolo che hai visto tu, perché proprio mi pareva stesse parlando di Paolini, giusto? Sì, esatto. Guarda, io ho avuto la possibilità di vedere 2 spettacoli diversi nell'arco di 10 giorni. Uh-huh. Il 26 era il giorno della memoria e ho avuto la fortuna e il privilegio di vederlo dal vivo. È poi stato trasmesso in diretta televisiva al teatro La Cucina della cooperativa Olinda a Milano. Jerry, scusami, dimmi, perché purtroppo non ho tantissimo tempo, dimmi quando pensi a Marco Paolini, che cos'è che trovi così imprescindibile nell'andare a vederlo, nel doverlo andare a vedere? No, non è doverlo andare a vedere, è stata una coincidenza. Ieri l'ho visto a Modena con Itis Galileo. E mi colpisce la sua capacità di affabulare, di parlare per 2 ore rotte consecutive, mantenendo un'elevatissima attenzione da parte del pubblico. Jerry, secondo te finisci pure, che è unica? Sì, non è unica, ce ne sono degli altri, di attori molto bravi, però lui veramente secondo me è imperdibile, impagabile. Jerry, ti ringrazio molto, ma soprattutto per avermi confessato col tuo nome Gerlando. Esatto. Posso dire l'ultimissima cosa a proposito di teatro? Io vado spesso al teatro e anche al cinema. Però vedere, a proposito di quello che dicevi, l'applauso finale, sì, e capire il momento in cui l'attore percepisce di aver fatto un bel lavoro è impagabile, perché glielo leggi negli occhi. Jerry, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao. Il Fu Mattia Pascal, versione teatrale di Tato Russo, a Lodi, alle Vigne, sublime e intenso. Ti senti sul palco dentro lo spettacolo. Elena.